Letture di Radio 24. In Liguria, un abitante su tre ha più di 65 anni e molti di loro non hanno risorse sufficienti per ricevere assistenza. Così il sindacato pensionati propone di aprire un'agenzia per aiutarli a vendere la nuda proprietà. Anziani soli che hanno diritto di vivere nel miglior modo possibile, ma non hanno risorse né risparmi per pagarsi un'assistenza o garantirsi comunque una situazione di serenità. E ormai non possono più contare sugli aiuti pubblici, sul fondo di solidarietà prosciugato. Anziani senza reddito, ma con un appartamento di proprietà, spesso diventato un onere per l'impossibilità di far fronte a spese straordinarie di mantenimento o adeguamento. In una situazione drammatica del welfare, l'OSPI, il sindacato pensionati della CGIL Liguria, ha avuto un'idea, immediatamente condivisa dagli assessorati regionale e comunale: creare una regia pubblica, sotto forma di un'agenzia, per aiutare le persone in difficoltà, spesso non autosufficienti, a vendere la nuda proprietà della loro casa, senza cadere vittime di un mercato aggressivo ad alto rischio. Tre donne, il segretario regionale ligure dello SPI, Anna Giacobbe, e gli assessori Lorena Rambaudi e Roberta Papi, stanno lavorando per coinvolgere le fondazioni presenti sul territorio ligure, gli istituti di credito, oltre alla Caritas e alle realtà di volontariato. Si parte, sostanzialmente, dal dato di fatto che in Liguria la cessione di alloggi come nuda proprietà, ovvero con la possibilità di usufruirne sino alla morte da parte del venditore, rappresenta oltre il 7% dell'intero mercato immobiliare, contro la media nazionale del 5,3%. Dato destinato a crescere in un contesto sociale caratterizzato dal 27% della popolazione costituito da ultra 65 anni, molti dei quali vivono soli in appartamenti grandi in zone in cui la richiesta di case è alta. La spinta sarà data anche dal fatto che 3.300 non autosufficienti, con reddito tra i 10.000 e i 20.000 euro l'anno, hanno visto cancellato da marzo il contributo di 280 euro al mese. Vogliamo trasformare il patrimonio immobiliare in un reddito per migliorare e allungare la vita. Le statistiche confermano che i poveri muoiono prima, dice Anna Giacobbe. Il risparmio consolidato, perché il risparmio corrente non esiste, diventa spendibile e crea lavoro, a cominciare dalle assunzioni di badanti. Due le strade per monetizzare la casa: la vendita e il vitalizio ipotecario. Nel primo caso, spiega il presidente dello SPI, potrebbero entrare in campo le fondazioni che hanno necessità di patrimonializzare, nel secondo le banche. Un percorso diverso, più difficile, è quello di far incontrare anziani soli, proprietari di casa senza reddito, con pensionati senza famiglia che hanno un reddito ma non la casa, per organizzare una eventuale convivenza. Lo ha già sperimentato, in alcuni appartamenti del centro storico, la comunità di Sant'Egidio. Insomma, un aiuto pubblico a essere più indipendente dallo stesso servizio pubblico. Per concretizzare la creazione di un'agenzia o comunque di una regia pubblica in grado di aiutare come un tutor l'anziano in difficoltà e difenderlo dalle aggressioni del mercato, c'è Over to Over, progetto che la Liguria, come annuncia Lorena Rambaudi, ha presentato insieme con Toscana e Corsica per ottenere finanziamenti dell'Unione Europea, in tema con l'anno dell'invecchiamento attivo, il 2012. L'anziano in difficoltà, vendendo la propria casa alle condizioni migliori, potrà continuare a viverci e a vivere bene. Se ne è parlato presso la Biblioteca Berio nel convegno organizzato dallo SPI Difendere e innovare il sistema di welfare, nuove iniziative a sostegno degli anziani in Liguria. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Pieracci, Nuda proprietà salva anziani, dalla Stampa del 19 settembre. Amore, ironia, rabbia, solitudine, libertà. Il Sole 24 Ore è in edicola da ieri con la collana Io mi chiamo G. Tutto il repertorio di Giorgio Gaber, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana d'autore. Dalla prima uscita ascoltiamo L'illogica allegria. Da solo, lungo l'autostrada, alle prime luci del mattino, a volte spengo anche la radio, e lascio il mio cuore incollato al finestrino. Lo so del mondo e anche del resto, lo so che tutto va in rovina, ma di mattina, quando la gente dorme col suo normale malumore, non può bastare niente, forse un piccolo bagliore, un'aria già vissuta, un paesaggio che ne so, e sto bene. Non lo so se mi conviene, ma sto bene, che vergogna. Io sto bene, proprio ora, proprio qui. Sì, è come un'illogica allegria di cui non so il motivo, non so che cosa sia. È come se improvvisamente mi fossi preso il diritto vivere il presente. Io sto bene, questa illogica allegria, proprio ora, proprio qui. Io mi chiamo G. La raccolta completa di tutto il repertorio di Giorgio Gaber è in edicola ogni venerdì con Il Sole 24 Ore.